Incontri di Gianfranco Fabi. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Con la voce, la musica e soprattutto le parole di Giorgio Gaber, buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano, buongiorno e buona domenica a Vincenzo Rita. Buongiorno a voi. La voce di Giorgio Gaber, questa canzone dedicata alla libertà, perché Vincenzo Rita è direttore di Società Libera e quindi pratica quotidianamente la libertà. Qual è il senso di questa canzone di Gaber? Io sono particolarmente affezionato a questa canzone perché innanzitutto la trovo graffiante, ironica al punto giusto, ma profondamente vera in alcune sue frasi. Quanto dice Gaber, che ci abituiamo ad essere comandati, in effetti, ma quella non è la libertà. Così come avremo diritto al voto, ma ci piace tanto delegare, no? Certo. Secondo me sono le due frasi più significative. E che non si può essere liberi da soli. E non si può essere liberi da soli, e quindi un po' di là della partecipazione. Ecco, Società Libera, diciamo subito, spieghiamo subito che cos'è Società Libera, un'associazione, una lobby, una... Società Libera è un'associazione culturale nata 13 anni fa che ha essenzialmente la missione, il compito di parlare di un certo tipo di liberalismo, come dire, questa, che ormai è diventata una parolaccia in questo periodo, perché frainteso, perché misconosciuto, perché, come dire, oggetto di attacchi continui e via dicendo. Poi il liberalismo ha avuto una storia strana, il pensiero liberale in questo paese, per cui all'inizio misconosciuto dal dopoguerra in poi, nessuno ne voleva sentir parlare e via dicendo. Io ricordo sempre che Dario Antiseri, per pubblicare i primi Popper, voglio dire, respinto da varie case editrici, ha faticato non poco. Dopodiché, con la caduta del muro di Berlino, tutti si sono innamorati del liberalismo, siamo diventati tutti liberali in questo paese, e neppure questo era vero e neppure questo rappresentava la realtà. Quando è iniziata la crisi finanziaria e economica degli Stati Uniti, allora sono diventati tutti, automaticamente sono ritornati ad essere antiliberali, addossando al liberalismo la responsabilità che poi non ha, perché io, che mi sento profondamente liberale, amo il liberalismo come visione del mondo e della vita, non penso di avere delle responsabilità sui derivati, certo, e sulla finanza allegra che è stata portata avanti in un certo punto. Anche perché appunto il liberalismo prevede e presuppone una responsabilità personale. Infatti, quindi... nello statuto di Società Libera noi al punto 2 abbiamo appunto voluto mettere che il liberalismo è essenzialmente legato alla responsabilità individuale, perché senza responsabilità ci possiamo raccontare tante cose, ma quello che vale è che cosa poi ognuno di noi fa nella vita, voglio dire, che cosa ha realizzato. Quindi il liberalismo è un po' politicamente scorretto. È politicamente scorretto sicuramente, molto fuori di moda in questo periodo, e che è stranissimo, perché alla caduta del muro di Berlino tutti noi pensavamo, vabbè, con la fine del comunismo, voglio dire, c'è libertà anche per il liberalismo inteso in un certo modo. Che il liberalismo, a nostro avviso, al di là della responsabilità individuale, è essenzialmente fatto di regole, poche se vuole, condivise se vuole, ma regole. Nessuno ha mai detto, nessun autore liberale ha mai scritto che essere liberale significa, come si sente dire oggigiorno, fuori da tutto, l'anarchia, e, da tutto, in anarchia, e via dicendo. Questa è una parodia del liberalismo in qualche modo, no? E allora Società Libera, che è un'associazione culturale fatta da, è composta da volontari, ha il compito di, come dire, di interessarsi di un certo tipo di concezione del liberalismo. Anche questo un po' fuori dal seminato, perché poi qui i liberali si sprecano in questo paese, spesso si confonde alcune cose che non vanno confuse. A me piace, come dire, l'impostazione di Società Libera essenzialmente perché al di là evidentemente di una concezione che dà spazio alla concorrenza, naturalmente al libero mercato e quindi alle privatizzazioni, quindi alla liberalizzazione e via dicendo, però non pone mai in secondo piano l'uomo e le sue libertà individuali. Ecco, Società Libera realizza ogni anno un rapporto sulla liberalizzazione, un rapporto soprattutto qualitativo di analisi della realtà italiana. L'ultimo rapporto si intitola Liberalizzazioni, crisi di un modello in un paese in crisi, cioè ci sono un po' troppe crisi. Sono troppe crisi, ma tenga presente che il rapporto è stato redatto praticamente alla fine o all'inizio del 2013, ma con uno sguardo retroattivo sull'anno 2012, in cui qualcuno di noi ha amato, come dire, definire il processo di liberalizzazione e di privatizzazione come l'anno del 2012, l'anno delle privatizzazioni chiacchierate. E quindi da questo punto di vista poi è venuto fuori il titolo Crisi di un modello, no? Perché di liberalizzazione e privatizzazione nel 2012 non vi è stata traccia. Abbiamo scritto nel rapporto che vi è stato solo un decreto che prevedeva nell'anno 2012 la privatizzazione di un ente, poi si è scoperto che era l'ente degli ufficiali in congedo, che si occupava essenzialmente con pochi impiegati di turismo, di ufficiale in congedo. Bene, pure questo è passato, perché poi il decreto non è stato approvato perché le Camere sono state sciolte. Ecco la crisi del modello ed ecco l'anno delle privatizzazioni chiacchierate in qualche modo. Ecco, privatizzazioni e liberalizzazioni un po' chiacchierate, di cui peraltro il paese avrebbe bisogno. È un paese un po' immobile, un po' bloccato, e che pensa forse che lo Stato possa risolvere tutto, ma con molto significato il suo editoriale del rapporto sulle liberalizzazioni si intitola Ritornare alla politica. La politica è un po' negli ultimi tempi abituata a dover rimediare delle emergenze, ma non sembra avere dei progetti per il paese. Su questo fronte forse anche, appunto, essere liberali vuol dire avere un progetto di costruire una società più libera, più aperta, ma anche capace di crescere. Sicuramente, ripeto, quel rapporto è stato redatto a fine 2012, quindi venivamo da un anno del cosiddetto governo dei tecnici. E il governo dei tecnici in qualche modo non ha fatto bene, tanto per essere estremamente chiari e schietti a questo paese, non solo perché non vi sono state privatizzazioni o liberalizzazioni, vi è stata molta confusione, tant'è vero che poi alla fine, come dire, è stato sonoramente bocciato dagli elettori nello scorso febbraio. Sicuramente essere liberali significa avere un progetto, e il progetto che non c'è. Ecco, poi torneremo a parlare di società libera e del problema dei temi italiani, però anche un po' nella logica di questa trasmissione parliamo anche di Vincenzo Orita. Come si diventa direttore di Società Libera? Qual è stato il suo percorso di carriera professionale, culturale? Beh, essenzialmente io ho fatto politica fino al 1995. Il secolo scorso. Ed esattamente fino al 2 giugno del 1995. Perché ho avuto la fortuna, o sfortuna, non si sa, per alcuni mesi di fare il consigliere regionale in questa regione, solo per alcuni mesi. La legislatura finì nel 95 e io ritornai a casa. Ero stato eletto con il Partito Repubblicano, in cui ho militato, l'unico partito in cui ho militato in vita mia. E il 2 giugno del 95, era un giorno festivo, uscivo dal Pirellone, e accompagnato da alcuni amici, e dissi questa frase che ricordo sempre e comunque: se questa è la seconda repubblica, forse era meglio la prima. Ricordiamo il 95, l'anno dopo il 94, quando c'è stato il grande cambiamento, l'entrata di Berlusconi in politica. Non avevamo visto i successivi 20 anni. Oggi sarebbe facile, forse. Il senno di poi. Io nel 95 capii che la politica non era più il mio campo d'interesse, in qualche modo. Amante di Popper e della cultura liberale, organizzai qui a Milano una mostra sul pensiero popperiano, qui in Triennale, e da lì nacque l'idea, insieme ad altri amici, di organizzare qualcosa di più strutturale, che non si interessasse solamente di un filosofo in modo particolare. E qui nacque l'idea di mettere su un'associazione, appunto, che si chiamava Società Libera. Come dicevo anche prima, nato un po' per scherzo, nel senso che voleva occupare il tempo libero, tra virgolette, di alcuni di noi e via dicendo, poi ha preso piede. Io per mestiere ho fatto il direttore personale negli anni passati, in modo particolare mi sono occupato di formazione manageriale, dopodiché ho smesso di occuparmi anche di questa cosa e un po' da pensionato, devo dire, perché sono un volontario, faccio il direttore di società libera, da pensionato relativamente, solo dal punto di vista economico, evidentemente, non da possibilità anagrafico. Dal punto di vista né anagrafico, devo dire, per fortuna, e né del tempo che ci si impiega. Perché qui parliamo di un lavoro, come dire, che in alcune giornate porta via 15 ore di lavoro, perché le attività sono tante, è fatto tutto in maniera appunto volontaria, e quindi bisogna, al di là della pomposità del termine direttore, è un direttore che, come dire, fa molte cose, non da direttore. No? E quindi è anche un'associazione, diciamo, finanziata liberamente. Finanziata molto liberamente, ci si può iscrivere a Società Libera versando un modesto contributo di 60 euro l'anno, e poi evidentemente ci sono alcuni amici più facoltosi che mettono di più. Non tengo a precisare, se mi permette, non percepiamo assolutamente una lira dal pubblico, perché sennò che liberali saremmo, no? Perché qui ci sono varie associazioni, fondazioni, anche perché quelle che una volta si chiamavano correnti di partito, certo, oggi si chiamano fondazioni, no? Pomposamente fondazioni. E queste fondazioni in Parlamento, come dire, accedono a una spartizione più o meno equa tra le varie aree politiche e attingono evidentemente dei sussidi. Quindi noi attività no. di studio, di ricerca, di elaborazione di rapporti, di pubblicazione, di convegni. Ecco, in questi anni cui è data Società Libera, qual è, diciamo, l'iniziativa, l'evento che le ha dato più soddisfazione, che ha dato più impulso e dire ma siamo sulla strada giusta a fare queste cose? Essenzialmente due incontri, se devo ricordare due persone, due incontri che conosciuti in vario modo, ma essenzialmente tutte e due legate al Premio Internazionale alla Libertà che noi abbiamo fatto per 9 anni e che abbiamo sospeso da 2 anni, non per nostra volontà, ma perché la RAI era fatta in collaborazione con RAI ed era un programma anche seguito su RAI 1 e RAI 2 per alcuni anni. Ho conosciuto due persone. Una è un monaco buddista che si chiama Ashin Sopaka, un giovane monaco buddista birmano che è scappato in Occidente, esattamente in Germania, dopo la rivoluzione ciclamina in Birmania, a cui lui aveva partecipato, seppur giovanissimo era stato tra i promotori, che noi abbiamo portato in una edizione del nostro premio e l'abbiamo premiato. Da qui è nato un rapporto, un'amicizia che poi è scaturita anche nelle marce internazionali per la libertà. E l'altra persona è Rebia Kadir, questa donna cinese, leader spirituale del popolo uiguro, che quotidianamente ha dei problemi, tanto per usare un eufemismo, con la Cina. Cioè il popolo dove vive? Dove... Vive nel nord-ovest, è una minoranza di circa 20 milioni di persone, nel nord-ovest della Cina, ha dei problemi, per cui la signora Rebia Kadir, dopo alcuni anni di carcere in Cina, è riparata a Washington, dove vive tuttora, e da lì guida l'opposizione del suo popolo, avendo ancora dei familiari in prigione a Pechino. Noi l'abbiamo portata in Italia, invitata da Washington, l'abbiamo premiata come un simbolo di libertà e di responsabilità individuale, appunto. Da lì siamo diventati amici e lei per 3 volte è tornata da Washington a Roma a guidare la nostra marcia. Quindi una visione, la vostra, anche internazionale. Lei ha accennato alla marcia internazionale per la libertà, si svolgerà quest'anno il 19 ottobre, ne parleremo nella seconda parte del programma. Lasciamo un piccolo spazio alle notizie sul traffico. Incontri. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche Ancora con le parole di Giorgio Gaber riprendiamo il nostro incontro con Vincenzo Olitta, direttore di Società Libera, che è con noi questo pomeriggio. Lo ringraziamo di essere con noi, salutiamo quanti ci ascoltano. Abbiamo parlato nella prima parte di Società Libera, un'associazione che è nata a metà degli anni 90, che vuole appunto approfondire e portare avanti i temi del liberalismo, di un liberalismo non solo all'interno dell'Italia. L'Italia è un paese che sul liberalismo non è mai andata troppo d'accordo, c'è molta ispirazione liberale, ma c'è anche molta volontà e quasi ricerca di una protezione statale. Lo Stato, quando c'è qualche problema, si chiede sempre di fare una legge invece di impegnarsi per risolvere questo problema. E abbiamo parlato nell'ultima parte della prima parte di questo nostro programma delle iniziative di Società Libera, degli incontri che ha realizzato anche con personalità straniere e della Marcia Internazionale per la Libertà. Che cos'è questa Marcia Internazionale per la Libertà, Vincenzo Olitta? Beh, come dicevo, avendo conosciuto un monaco buddista, Yashin Sopaka, che aveva organizzato le marce a Bangkok e via dicendo, parlando con lui ci venne l'idea di fare qualcosa anche noi in questo paese. E partimmo 6 anni fa con la prima Marcia Internazionale per la Libertà dei Popoli e delle Minoranze Oppresse. In modo particolare ci riferivamo al popolo birmano, al popolo tibetano, al popolo uiguro, al popolo iraniano ed altri, al popolo vietnamita. Ce ne sono purtroppo tanti. Ce ne sono tanti. Noi stimiamo che in almeno 70 paesi del mondo oggi il discorso dei diritti umani è un discorso fondamentale, perché riguarda centinaia di milioni di persone. Purtroppo è un ragionamento, un discorso un po' misconosciuto, come dire, dalla politica internazionale. Non ne parliamo della politica italiana, troppo presa dai problemi domestici e via dicendo. E quindi noi volevamo dare un segnale, come dire, quale segnale? Che esistono anche dei liberali che si occupano della libertà in senso globale, se mi può passare il termine, certo. Oltre che occuparsi delle libertà economiche o politiche del nostro paese. Per ritornare paese. Un po' al motivo di Giorgio Gaber, la libertà non è solo dei singoli, ma la libertà è tanto maggiore quanto è più condivisa, quando è la libertà di tutti. Sicuramente questo è vero, così come è vero che se io devo essere credibile in Italia nel momento in cui parlo dei vari aspetti di libertà, non posso girarmi dall'altra parte nel momento in cui vedo che centinaia di milioni di persone non hanno alcuni diritti individuali o 130 monaci buddisti nell'ultimo anno si sono dati fuochi per il Tibet. Che razza di liberale saremmo? Ecco, questa marcia si svolge in contemporanea, tra pochi giorni, 19 ottobre, a Parigi, a Roma, a Berlino, a Barcellona e a Bruxelles. Sì. Quindi vuol dire che Società Libera ha anche delle società simili, almeno in questi paesi. Abbiamo degli amici italiani che nel corso degli anni ci hanno conosciuto in queste città, ma poi devo dire che, essendo noi una piccola associazione, oltre a qualche amico in queste città, abbiamo... ci siamo appoggiati sulle stesse comunità con le quali abbiamo iniziato le marce qui a Roma, e quindi ci appoggiamo ai tibetani parigini di Bruxelles, di Berlino e così via. Quindi diciamo, queste marce sono fatte in collaborazione tra Società Libera, che ha avuto l'idea, l'ispirazione, le sostiene in qualche modo, fa la sua parte preponderante evidentemente a Roma, ma anche unendo gli sforzi con le comunità degli esuli in Europa. Che obiettivo ha? L'obiettivo di sensibilizzare innanzitutto l'opinione pubblica europea, laddove è possibile, i mezzi di informazione, e la cosa diventa sempre molto più difficile, perché come la classe politica e la classe dirigente di questo paese è impegnata in altre attività e, come dire, o è impegnata su altri argomenti, l'informazione in questo paese, mi lasci dire, che lascia molto a desiderare, e quindi, come dire, con qualche eccezione, con qualche eccezione. tipo Radio 24. Grazie. Ma forse, essendo una marcia pacifica, forse fa poco notizia, se magari... Sì, perché la caratteristica della marcia è quella di essere silenziosa, oltretutto, con alcuni saluti finali da parte dei leader delle comunità che intervengono. È stata una scelta voluta quella del silenzio, perché parte dal presupposto che il silenzio spesso incide più delle urla e di qualsiasi alzata di toni. In qualche modo, questo per esempio è piaciuto molto ai nostri amici stranieri. Rebbia Kadir, che guida continuamente delle marce del suo popolo in giro per il mondo, quando è venuto la prima volta a Roma ci ha ringraziato perché non aveva mai partecipato ad una marcia silenziosa per il suo popolo, e quindi ha questa caratteristica, ma anche un obiettivo ben preciso. Noi vorremmo, e forse quest'anno ci riusciamo, vorremmo che il Parlamento europeo votasse una risoluzione per l'instaurazione della giornata europea per la libertà dei popoli e delle comunità e delle minoranze oppresse. Infatti all'inizio di ottobre presenteranno un gruppo di europarlamentari che abbiamo coinvolto in questa iniziativa questa risoluzione, che se accolta dalla metà più uno evidentemente dei parlamentari potrebbe diventare legge, e quindi nel 2015 potremo arrivare almeno a ricordare con una giornata europea il discorso dei diritti umani e delle minoranze oppresse. Che sarebbe già un primo passo per un interesse maggiore dell'Europa verso queste realtà. Sicuramente, oltre ad essere un successo per Società Libera in quanto promotore dell'iniziativa, sicuramente sarebbe un'amplificazione dei nostri sforzi di quest'anno. Ecco, torniamo allora un po' all'Italia, questa Italia in cui liberalizzare è difficile, si è tentato negli anni scorsi, privatizzare è ancora più difficile, eppure sarebbe importante per dare un po' di ossigeno all'economia, per dare un po' di risorse anche allo Stato, che ha delle difficoltà finanziarie notevolissime e che non riesce a dismettere per esempio il patrimonio pubblico. Ecco, si parla in un capitolo dell'ultimo rapporto di privatizzazioni parlate, di privatizzazioni annunciate. Sì. Ecco, in questo senso, perché è difficile in Italia liberalizzare, anche semplicemente vendere una caserma dismessa? Perché la burocrazia è tanta, a mio avviso. Vede, qualche anno fa solamente noi parlavamo del problema della burocrazia, mi riferisco a 10 anni fa per esempio. Oggi ne parlano in tanti avvertono anche sulla loro pelle che il problema della burocrazia, al di là di tutti gli altri problemi che il paese ha, è un problema pesante. E quanto noi parliamo di burocrazia, evidentemente dovremmo parlare anche di che cosa è fatta la burocrazia. Sicuramente viviamo in un paese in cui esistono 250.000 leggi, ma esiste anche tanta gente che si applica per l'applicazione di queste leggi. Quindi mi lasci passare la battuta, con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che per l'applicazione di queste leggi vi è sempre una scrivania, vi è sempre tanta gente che si adopera di buon grado, perché questo è il suo mestiere, perché evidentemente questo diventa un mezzo di sostentamento. Se noi volessimo aggredire realmente la burocrazia, ci dovremmo porre il problema delle tante migliaia di persone che si occupano di cose più o meno inutili e quindi che foraggiano l'apparato burocratico. Eppure abbiamo avuto un ministero, dei ministri della semplificazione. Che non hanno semplificato nulla, assolutamente, perché qui non c'è bisogno di essere un esperto di nulla. Siamo io e lei in questo momento due cittadini italiani. Se andiamo per strada o giriamo per uffici, o come è successo quest'anno ai nostri poveri pensionati che una volta ricevevano il CUD a casa al momento della denuncia dei redditi, quest'anno sono impazziti perché nessuno più gli ha mandato il CUD, quindi bisogna andare presso gli uffici dell'INPS, pagare qualcosina e via dicendo. Quindi si è complicata una cosa. Si complica la situazione, si complicano anche situazioni semplici. E allora, se noi vogliamo realmente, come dire, dare uno scossone al paese e via dicendo, bisogna che la classe politica si faccia carico di chi lavora in questi settori. Un esempio per tutti: si sente parlare spesso, ci provano, può darsi che riusciranno adesso, sulla abolizione delle province. Abolizione delle province, ma signori, rendiamoci conto che nelle province vivono e lavorano decine di migliaia di persone in questo paese. se noi pensiamo che queste persone in qualche modo vanno prese e assunte dalla regione, loro saranno ben lieto, non fosse altro perché i livelli retributivi sono diversi, superiori nelle regioni rispetto alle province. Ma non elimineremo burocrazia, perché questi signori continueranno a perpetrare in altri uffici, in altre cose. Bisogna pur fargli fare qualcosa in qualche modo. Però è un processo che va comunque fatto, se si pensa che non è un processo che possa cambiare. Allora, se vogliamo dire, come dire, parlare un attimo politicamente in modo scorretto, vogliamo chiudere qualcosa, vogliamo chiudere gli enti, vogliamo abolire le province. Beh, dovremmo arrivare a un risultato che a fette, non dico tutti, ma fette di dipendenti vadano a casa con una retribuzione da parte dello Stato. Ma questa è anche una via possibile, anche perché indubbiamente ci sarebbe un onere da parte dello Stato, ma chiuderemo dei centri di spesa. Perfetto. Perché adesso sono dei centri che non solo costano, ma che fanno spendere. Perfetto. Quindi Vincenzo Orita, per concludere, un po' di pessimismo, ma nella realtà, guardando la realtà, però l'ottimismo della volontà resta. Sicuramente, se no non continueremo ad occuparci delle cose di cui ci occupiamo, come dire. Grazie mille, grazie a voi. Grazie Vincenzo Orita di essere stato con noi. Vincenzo Orita, direttore di Società Libera, lo ricordo, un'associazione che cerca di portare avanti con pochi mezzi e con tanta buona volontà le idee liberali in questo paese. Grazie anche a Pietro Lacorte in regia e a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.